L'ora esatta di Radio Etna Espresso. Buonasera dal Marchi Club, sono le 21:04. Radio Etna Espresso presenta Marchi Club. L'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club, in diretta dal centro musicale Space Music a Cireale. Buonasera, buonasera a tutti, rieccoci ad iniziare una nuova puntata del nostro splendido format Marchi Club che è giunto alla seconda stagione. Buonasera caro Riccardo. Buonasera a tutti, buonasera Carlo. Ci ritroviamo anche questo martedì, come vedi al mio solito gesticolo un po' alla Bruno Vespa quando... Vabbè, gli altri non ci vedono in realtà, però qui in sala. A proposito, quando si muovono le mani in quel modo sembra che uno assiggiri i soldi, come si suol dire, no? Magari. A questo punto, mentre proprio dicevo, gli altri non ci vedono, ma in realtà noi andiamo in onda in radio, sulle frequenze di Radio Etna Espresso, però è anche vero che, diciamolo, tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento in streaming tramite il nostro sito www.radioetnaespresso.it, tramite la nostra applicazione, quindi basta cercare Radio Etna Espresso sul vostro store, o magari che ci stanno seguendo tramite Facebook, la nostra pagina ufficiale, quella di Radio Etna Espresso, ma soprattutto quella del Marchi Club, possono anche venire qui, perché noi siamo in diretta dalla Space Music di Acireale in via Sciarelle numero 93 tra le 21 e le 23 di ogni martedì, a condurre questo splendido programma che appunto è interattivo, quindi non vede i protagonisti solo noi e la musica dei nostri ospiti, ma anche e soprattutto il nostro pubblico. Sì, esatto, noi oltretutto ci aspettiamo tanti messaggini, WhatsApp o SMS, fate quello che volete, insomma. L'importante è che ci fate sentire. Dai, che sentire. Lo ricordi il numero oggi? No, dillo. Vabbè, tu. Lo dico io, 349-850-8509 per scriverci i vostri messaggi tramite WhatsApp oppure la nostra pagina Facebook, basta digitare Marchi Club, mentre ci siete lasciatelo un like, così rimanete aggiornati su tutta quella che è la nostra programmazione, su tutti gli eventi di settimana in settimana, avete modo di dare un'occhiata, una sbirciatina alle foto che noi pubblichiamo, a tutti i video, diciamo un po' quello che succede qui in sala, se non avete magari modo di seguirci qui fisicamente, ma il web ormai davvero una grande risorsa. Allora, che facciamo? Io ti lascerei l'onore di introdurre proprio così, diciamo, un nome e cognome tra virgolette della band ospite di stasera e poi inizieremo a conoscere i ragazzi. Allora, si tratta di una band catanese. Abbiamo sentito in questa stagione diversi generi musicali, quindi abbiamo spaziato parecchio dal folk, insomma, al cantautorale, alla dream pop. Questa volta è giunto finalmente il momento di far sentire un po' di sano rock, un rock di matrice indie alternative, diciamo che fa pensare parecchio a tutto l'indie alternative italiano prodotto negli anni 90. Si tratta di una band catanese, loro sono Le Camere Blindate, che da qui a breve sentiremo, insomma vedremo cosa hanno da farci sentire, cosa hanno da dirci. Anche perché ricordiamolo, in questo programma la musica è rigorosamente live, almeno quella dei nostri ospiti, e soprattutto è musica originale. Giustamente l'altra volta parlavamo di musica inedita, un po' perché ormai c'è questa abitudine di dire inedita per indicare, diciamo, la musica effettivamente originale di un gruppo. L'importante è farsi capire, in ogni caso, certo. Con inedito capiscono che è una cosa che non è presa da un'altra parte, ma insomma, è musica proprio che compongono, ecco. i nostri ospiti. Va bene, allora facciamo così, iniziamo ad ascoltarceli con un pezzo dei loro, dopodiché li avremo qui a parlare insieme a noi, Le Camere Blindate con Inconsapevole Vuoto. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. Stop. ecco, un inconsapevole vuoto in una versione un po' particolare, proprio perché noi diamo spazio ai nostri artisti che vengono qui ospiti di settimana in settimana, e quindi abbiamo modo di proporre la loro musica che loro stessi ci offrono. Questo tra è un brano assoluto che suoneranno dopo dal vivo, quindi... Esatto, proprio per precisare, perché oltre, diciamo, alla musica tra virgolette già registrata dai nostri artisti, questo format soprattutto si basa sulla musica live, quello che appunto i nostri ospiti vengono a suonare qui in sala ogni martedì. Quest'oggi siamo in compagnia delle Camere Blindate. Ragazzi, ci siete? Sì, ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, prima ovviamente domanda di rito e anche di educazione, direi, per buona educazione. Come state, come vi state trovando nella nostra sala? Stiamo bene, stiamo trovando assolutamente bene, l'accoglienza è ottima, e, insomma, siamo prontissimi. Ma chi è acceso? Chi sta parlando? Perché non vi vede nessuno, quindi la voce di chi? Sono Orazio, la voce delle Camere Blindate. Allora, introducicela bene, dai, siete in cinque, quindi direi un minimo di presentazione ci sta. Tu hai il microfono. Allora, iniziamo con Aurelio Greco alla chitarra, seconda chitarra Marco Longo, Enzo Di Bella al basso e Massimo alla batteria. Noi tra l'altro abbiamo avuto già modo di conoscerci durante la scorsa edizione del Marchi Festival, perché eravamo nella piazza dei Tre Castagni e abbiamo già avuto modo di sentire la vostra musica live. Oggi siete qui nuovamente a riproporcela, siamo in diretta dalla Space Music di Acireale in via Sciarelle numero 93, e invito tutti coloro che volessero a venire qui come nostro pubblico a vedere come si fa la radio, come si fa la musica live. Ragazzi, io non lo so. Ma io vorrei dire una cosa, ti interrompo, scusami. Vai, vai. Allora, perché poi io parlo sempre. Noi abbiamo sentito un brano, Inconsapevole Vuoto. Ecco. Su questo brano, le Camere Blindate hanno anche girato un videoclip, o sbaglio? Sì, su YouTube potete appunto vedere e ascoltare la versione completa, se possiamo definirla così, del brano che è stato trasmesso qualche minuto fa. Quindi è essenziale fare un po' di pubblicità, quindi tutti i nostri ascoltatori magari che non vi conoscono possono avere la possibilità anche stasera, dopo che finiamo la trasmissione, di andare a cercare un po' di cose sulle Camere Blindate. O tramite i classici canali come Facebook o Instagram, insomma. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. Con Ulisse, sono sicuro di trovar quel che cerco tra le scarpe di Ulisse. Se vuoi provare vera comodità, calza sempre da Ulisse. Sobrio, eleganti, ma sempre Ulisse. Per lui, per lei, per i bambini. Se cerchi l'eleganza, ma vuoi anche sostanza, per essere alla moda, scegli in grande, qui si trova. Anche per bambini, i modelli più carini. Le scarpe per lo sport, gli accessori un po' per tutti. Ulisse già si sa, niente trucchi. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale Acireale. Pizza Family, stuzzicheria, focacce farcite, scacciate, pizze sfiziose e maxi. Se prendete tre pizze, Pizza Family vi offre una margherita in omaggio. Pizza Family, Corso Savoia 143 a Cireale. Servizio a domicilio. Chiamateci allo 095 764 98 70 o al 338 71 83 469. Provate la nuova pizza con carpaccio di tartufo. Da Tutto Scarpe Megastore, l'1 maggio dalle ore 18, vi aspetta per foto e autografi l'attore del segreto, Chico Garcia, Severo Santa Cruz. Ciao amici siciliani, lunedì 1 di maggio sarò a Giardini Naxos, ospite della famiglia Angulo, per festeggiare il quinto anniversario di loro punto vendita Megastore Tutto Scarpe. Festeggia con noi i primi 5 anni del Megastore Tutto Scarpe. Vi aspettiamo l'1 maggio dalle 18 in via Consolare Valeria, svincolo autostradale direzione Catania, Giardini Naxos. Ritorna l'evento motoristico più atteso dell'anno. Expo Car 2017, 20° Salone dell'Auto e della Moto di Catania. Al centro fieristico Etna Fiere Etnapolis. Dal 21 al 23 aprile. Moto, auto, quad, kart, accessori, servizi, prove su strada, trofeo Hi-Fi Car e Tuning, Miss Motors e tanto altro. Il momento giusto per cambiare la tua auto e moto alle migliori offerte fiera. Vi aspettiamo venerdì 17-21, sabato e domenica 10-21. È un appuntamento City Class e Block Shaft. Organizzazione Euroeventi Catania. Non chiuderti in difesa, vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, Marchi Club. Dici che mi vuoi, perciò mi avrai. Dici che mi sai e poi si sa che è tanto facile, è tanto facile, adesso che non c'è più lei. Cosa sei? Ma ti ho aspettato e scopro che sei già passato. Adesso è facile, Mina e gli After Hours, qui anche loro, sì, al Marchi Club. Siamo quasi alla nostra prima mezz'ora di programma, di questo nostro splendido format che è già alla sua seconda stagione. Caro mio Riccardo, è giunto il momento di ringraziare, eh sì, in apertura, però è giusto, si deve fare in apertura e in chiusura tutti coloro che sostengono questo format. E oltre ovviamente al nostro Marco Bertani che è qui in regia con noi, al nostro Salvatore Rapisarda, uno dei tecnici di Radio Etna Espresso, e al nostro Giuseppe Pandolfo che è alla regia fonica, quindi segue i ragazzi durante le due ore di programmazione, durante le loro esibizioni live, e tutto il gruppo Etna Espresso, perché davvero ci dà la possibilità di condurre, di mandare avanti questo programma che appunto è alla sua seconda stagione. C'è anche da ringraziare ovviamente la città di Acireale, il sindaco, l'ingegnere Roberto Barbagallo e l'assessorato alle politiche giovanili che ci dà appunto l'opportunità di essere qui in diretta dalla Space Music di Acireale in via Sciarelle 93. Ma ci sono altri due ringraziamenti da fare. Il primo è un posto per noi ormai speciale, perché proprio dentro i nostri cuori ogni martedì sera è un'oasi di ristoro. Di cibo e bevande, perché è il caso di dirlo, ed è Sketch, caffetteria e fumetteria che ha aperto sia colazione con frullati, caffè, estratti preparati sul momento e tanti prodotti da forno, ma anche nel pomeriggio, perché non è solo caffetteria ma anche fumetteria. È un classico punto di ritrovo qui nella Cese per un ricco aperitivo, per un tè o per delle bevande calde, e soprattutto alla sera davvero punto di ritrovo per i giovani di Acireale, perché vi offre i ramen, i panini Sketch, le insalate e un ampio menù. Tra l'altro tutti i mercoledì e venerdì sera da Sketch musica live. In particolare questa settimana, mercoledì 5 aprile, i Black Rain, una cover band di musica rock, e il venerdì 7 aprile una band che ha un nome un po' strano, si chiamano Carbonica. Oh, sento un applauso, c'è qualche applauso qui in regia radiofonica, non so se tu sono li conosci. Sono gli applausi registrati questi. No, questi sono live, ci tengo a sottolineare. Tu li conosci questi Carbonica, che saranno il 7 aprile da Sketch a suonare? Sì, li conosco molto ma molto bene. So che presenteranno qui ad Acireale un singolo che da qui a breve entrerà in rotazione su molte radio catanesi. Possiamo dirlo, è già uscito effettivamente ufficialmente. Sì, però pian piano lo sta scendendo e adesso è arrivato in Sicilia. Il lunedì sarà Disco Espresso di Radio Etna Espresso. E se volete ascoltare non solo questo pezzo, ma il secondo, il primo EP e poi l'album nuovo dei Carbonica intitolato Quei Colori, venite da Sketch il venerdì 7 aprile per ascoltarli live. Tra l'altro, durante la sera da Sketch potete anche avere degli sconti e delle promozioni sui drink, le birre e le vostre consumazioni. Basta dire di aver ascoltato questo spot al Marchi Club su Radio Etna Espresso e potrete richiedere la tessera gratuitamente. Sketch è in via Felice Paradiso 58 da Acireale e online su Facebook e al sito sketchcoffeecomics.com. Ma dopo un ricco aperitivo, direi che è il momento anche di l'indomani, smaltire. Anche perché arriva l'estate fra poco. Vabbè, noi non siamo i tipi che... Sei pronto alla prova costume? L'altro giorno ho letto un link su Facebook carinissimo. Sei pronto alla prova? Hai fatto la prova costume? Sì, si asciuga. Ah, ok, bello, mi piace. La utilizzerò in futuro questa bella battuta. È molto carina, soprattutto per le donne. Dice: hai fatto la prova costume? Sì, si asciuga. Perfetto. Vabbè, comunque, battute facebookiane a parte. Che si fa dopo aver mangiato per mantenersi in forma prima dell'estate? Quello che fai tu. Tu vai in palestra. Da 5 anni vado. Si vede, sei in forma. Insomma, dai, c'è sempre da migliorare. Alla palestra Vigor School del Matteo del maestro Matteo Antonino Mascali, che è un pezzo di storia ad Acireale, perché è in attività da quasi 40 anni. Vabbè, Bertani, non mi prendere in giro, ogni tanto capita, è l'orario tardo, così ci si pappina. Ad Acireale ha aperto, ecco, grazie, almeno un applauso di consolazione. Con quasi 40 anni di esperienza nel settore, e dal 1 aprile per tutto il mese di aprile è in vigore una super promozione. Con soli 150 euro di iscrizione per il singolo e 250 in coppia avrete un anno di abbonamento in palestra che comprende tutti i corsi, quindi sauna, corsi di zumba, total body, pilates, step, programmi personalizzati di dieta e in sala, e accesso open e limitato tutti i giorni dalle 9 alle 13, dalle 15:30 alle 22:30. Potete approfittare della promozione, potete iscrivervi singolarmente oppure in coppia, non importa che siate col fratello, la sorella, la cugina, il fidanzato, l'amica, l'amante, perché no? Pagherete solo 150 euro per il singolo e 250 per la coppia. La Vigor School è ad Acireale in via Bellini numero 18 e su Facebook alla pagina Palestra Vigor School di Acireale. Quindi grazie anche ai nostri sponsor che ci supportano in questa seconda stagione di programma. Che dici, torniamo alla musica dopo questa piccola parentesi? Ok, siamo qui per fare questo. Insomma, allora, anche i nostri sponsor ci aiutano per far sentire la musica, quindi allora, sono qui anche loro in attesa. Facciamo così, ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Depeche Mode, dopodiché ci ritroviamo qui con le camere blindate. Questo è Where's the Revolution. You've been fed truths. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country? Noi siamo sempre qui in diretta da Via Sciarelli numero 93 alla Space Music di Acireale. Io sono in compagnia di Riccardo Trovato, ma anche delle camere blindate. Ragazzi, ci siete? Sì, eccoci. Eccoci qua. Pronti. Bene, allora, visto che io vi sento tutti belli in coro, attivi e pimpanti. Aspetta, non andare. Io già vado dritto. Troppo. Innanzitutto voglio che diciate il nome del brano che ci avete suonato prima. Mm-hmm. Il titolo che abbiamo proposto qualche minuto fa si intitola I Mostri, che io già avevo sentito. Esatto. Diciamo che, come si suol dire, la notte porta consiglio, ma a volte può portare anche rivoluzione e tormenti, no? Quindi diciamo che è stato un brano anche scritto durante le mie lunghe le paturnie notturne, le nottate insonni che passo io purtroppo tuttora. Vabbè, però sai, esistono delle cose tipo il Valium che comunque possono aiutare. No, preferisco parlando di Valium. Ma dai, un po' di camomilla su, andiamo ai metodi antichi, la camomilla, che so, sti farmaci, ste droghe, andiamo di camomilla. Sentite, io voglio che presentiate subito un altro brano. Okay. Che ce lo suoniate adesso, insomma. Il secondo brano si intitola Cindy. Diciamo che il vero amore può cambiare una persona, quindi può farla mutare, accettare sia i pregi ovviamente, ma soprattutto i difetti, le follie. Quindi in questo brano cerchiamo di parlare appunto di un vero amore che riesce a mutare e a placare le sensazioni blindate. Le camere blindate qui per noi al Marquee Club Live. La Sicilia traslochi. Trasportiamo delicatamente le vostre cose e case. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, modifichiamo nei nostri laboratori mobili e cucine. Personale qualificato e la copertura assicurativa vi garantiscono la massima serenità in tutte le fasi del trasloco.

abbiamo sentito Lenny Kravitz con Where Are We Running. Where We Are Running, questo inglese davvero siamo messi un po'. Vabbè, ma non è un male. Problema questo. Siamo sempre qui in onda dalla Space Music di Acireale per il Marquee Club. I ragazzi sono ancora con noi? Sì, siamo sempre qui. Allora, ragazzi, noi a volte ci capita così di sbagliare un po', partire dai piedi anziché dalla testa. Partiamo stavolta un po' dal, diciamo proprio dall'inizio, no? Dal vostro nome, perché è un po' particolare. Volevamo giusto sapere qualcosa in più. Chi ha dato il nome alla band, l'input da dove è arrivato. E a proposito anche della vostra descrizione, chi è stato un po' a metter giù questo nome, proprio diciamo tra virgolette a sceglierlo? Cioè, da dove è nato? Come mai giusto questi due termini? Quindi la colpa è tua, tra virgolette. La colpa dei pregi me li prendo tranquillamente. È un nome abbastanza particolare. In realtà davvero mi ha incuriosito già la prima volta che lo vidi, già al Marquee Festival, sì, anche se poi in realtà vabbè, già qui nel catanese eravate abbastanza conosciuti. Allora, dopo aver un po' così fatto un piccolissimo excursus sul vostro nome, parleremo magari anche poi dopo di come si è andata formando la band, vi chiederei di suonarci un altro pezzo live. Adesso vi facciamo ascoltare un'intesa quasi perfetta. Essere sempre al di sopra di tutto, non chiedo clemenza dall'alto prelato, non vedo, non sento, non soffro l'offesa, la solita resa, la solita scusa. A meno che tu non sia mia, perfetta che mozzava il fiato, strada distante da tutto e da tutti, rispetto le attese, rispetto le accuse, le solite accuse, le solite scuse. A meno che chiedo che tu mi comprenda, che tu mi comprenda. Non chiedo che tu mi comprenda, sicuro le mie distruzioni. Non chiedo che tu mi comprenda, che tu mi comprenda. Non chiedo che tu mi comprenda, sicuro le mie distruzioni. Non chiedo che tu mi comprenda, che tu mi comprenda. le Camere Blindate qui rigorosamente live a presentarci la loro musica al Marquee Club. E effettivamente io e te, Riccardo, abbiamo affettivamente abbiamo avuto modo di già vederli suonare live, non solo in giro così per Catania, per i locali, per tutto l'Interland, e di conoscerli ma anche ad uno splendido evento che abbiamo condotto anche quella volta insieme e te, tra virgolette, come presentatori, che fu il Marquee Festival l'anno scorso nella splendida piazza di Tre Castagni. Ma io guarderei un attimino al futuro. Perché magari verrà organizzato un evento alla fine di questa stagione, pensato davvero all'ingrande, no? Magari quest'estate avremo modo di rivivere un altro Marquee Festival, seconda edizione come il nostro format, e quindi non so, così magari riusciremo a mettere su un evento ancora più grande di quello dell'anno scorso. Che dici? Iniziamo a lavorarci, così possiamo, non dico ma ovviamente noi sotto sotto già ci stiamo lavorando. Esatto, lo possiamo dire ai nostri lavoriamo ascoltatori sempre, anche perché riteniamo che uno degli spazi di questo tipo siano essenziali per la musica qui in Sicilia e a Catania. Anche perché di questi tempi, diciamolo, in radio, chi è che propone la musica originale degli artisti e soprattutto live? Poi voglio dire, un programma in fascia notturna che strizza un po' l'occhio anche al rock italiano, al pop rock, davvero a tutti i generi. Allora, sai che ti dico? Ascoltiamoci un classico, gli Oasis con Wonderwall, era il 1995. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Radio Etna Espresso, Marchi Club. Con Ulisse, sono sicuro di trovare quel che cerco tra le scarpe di Ulisse. Se vuoi provare vera comodità, calza sempre da Ulisse. Sobri o eleganti, ma sempre Ulisse. Per lui, per lei, per i bambini. Se cerchi l'eleganza, ma vuoi anche sostanza, per essere alla moda, scegli in grande, qui si trova. Anche per bambini, i modelli più carini. Le scarpe per lo sport, gli accessori un po' per tutti. Ulisse già si sa, niente trucchi. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Buona! Facciamoci un selfie con lo sfondo dei faraglioni mentre mangiamo una siciliana. Non l'hanno acquistata in montagna per mangiarle in riva al mare. Ora le siciliane tradizionali, veramente buone, le fanno sul lungomare Ciclopi 215 di Acitrezza, vicino alla vecchia fontana. E come si chiama il posto? Alla vecchia fontana. Siciliane fritte sul momento, oltre a pizze e focacce di ogni tipo, anche da sport. Scopri il gusto autentico della tradizione. Puoi chiamare e ordinare al 347 67 63 530 alla vecchia fontana. Seguici su Facebook. Chiuso il martedì. Non chiuderti in difesa. Vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco. Radio Etna Espresso. Marchi Club. Che penso a te, è come volare sugli alberi, sapendo che più in alto andrò, più bello sarà raggiungerti, raggiungerti nei sogni miei e anche in tutti quelli tuoi, dove potrò rincorrerti in ampi spazi senza pericoli. Perdonami mio amore, ma la storia è semplice, basterebbe improvvisare un ritorno all'origine. Le gioie del mio cuore si infrangono così, come onde di dolore, spesso poi mi risucchiano. Questa notte così piccola, la notte stretta su di me, che non mi basta mai, perché vorrei nutrirmi sempre più dei tuoi sussurri come musica. Perdonami mio amore, ma la storia è semplice, basterebbe improvvisare un ritorno. Gioie del mio cuore si infrangono così, come penso a te e non è il tempo di dire che fa sempre male stare qui a scrivere spiegandomi perché c'è in me una condanna a forma di spirale vortice che fa della mia vita sempre solo un sé. Rieccoci qui al Marchi Club. Ma io mi chiedo, ma le vibrazioni un po' che fine hanno fatto? La band credo si sia sciolta. Mm-hmm. Il cantante Francesco invece ancora fece molto scalpore con quel singolo Femmina. È un tipo un po' da talent adesso, quindi mm-hmm. Amici. Già, ma fatto diciamo il giudice non solo lui, credo. Guarda, The Voice, anche Morgan abbiamo Piero Pelù a The Voice, mi pare. E lui forse era amici, credo amici, ma ormai guarda anche Morgan, artistico ad Amici della squadra blu, quindi Mao Bianco e blu, non ricordo. Ormai vanno di moda queste cose, quindi tutti sono lì a fare da giudici. Anche il mio caro Fabrizio Moro, che io adoro, sempre stimato, mannaggia, sta ad Amici a fare pure. Senti Carla, ma lo sai che è arrivato il momento della nostra intervista telefonica a una band? Perché è giusto ricordarlo ad ogni puntata. Oggi devo dire che abbiamo dato parecchio spazio al rock. Gli ospiti mm-hmm. in sala fanno un indie alternative, mentre la band che abbiamo in linea fa rock italiano. Loro sono gli Avorio Nero e in linea dovremmo avere Luca. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao Luca, come va? Tutto bene? Buonasera. Sì, tutto bene, grazie. Ecco, ti faccio una domanda di rito. La band quando nasce, come mai questo nome? Ok, allora, per quanto riguarda la data di nascita, noi sono 10 anni che suoniamo insieme. Siamo rimasti i storici, siamo io e il chitarrista, diciamo. Io sono il cantante, innanzitutto. Di dove siete? Noi siamo di Roma. Dall'accento Roma, si capiva. Di Roma e provincia, diciamo, siamo un po' sparpagliati intorno a Roma. Tra l'altro, quindi voi, tra virgolette, ufficialmente siete in due, almeno a giudicare dalle immagini, dalle foto di presentazioni della band su Facebook. Sì, ma poi in realtà. Siamo i due storici rimasti da 10 anni a questa parte, poi logicamente ci contorniamo di altri ragazzi che ci aiutano, siamo tornisti. Personale live. Stiamo lavorando. Sì, personale live e anche studio, sinceramente. E come mai questo simoro, Avorio Nero? Un nome abbastanza intrigante. Allora, sì, è un nome buono. Ti svelo una curiosità su questa. Ecco, regalaci questa piccola chicca. Sì, guarda, noi cercavamo in tutti i modi un nome, come dici tu, anche curioso, intrigante, che potesse suscitare la curiosità della gente. Erano già 10 giorni che stavamo alla ricerca. Una cosa, sì, non riuscivamo a trovare una soluzione. Invece nella cantina del nostro primo batterista 10 anni fa, che era piena di non so che di tutto, trovammo una locandina di un film degli anni 30. Che si chiamava proprio Avorio Nero. Guarda, io mannaggia non lo conosco perché sono troppo piccola per ricordarmi. Negli anni 30 non c'era nessuno di noi, mi sa. Anche io. Infatti questa locandina di un film, non so se era non ricordo bene se era la locandina o se era addirittura vabbè, un po' il poster, diciamo. Quindi vi ha salvati alla fine, vi ha salvati dalla crisi. E allora un nostro artista dice: ma Avorio Nero, ma come mi risuona, come vi risulta? Beh, però effettivamente non è male, perché lui dice, sono anche i colori degli assi del pianoforte. È vero. Effettivamente è un nome radiofonico, Avorio Nero, e suona abbastanza bene. Vorrei dire due cose velocissime sulla band, una delle quali insomma ci accomuna in qualche modo. Loro hanno partecipato per ben 2 volte a 2 trentennali di 2 dischi dei FIBA, uno che è 30 anni di Desaparecido, da Desaparecido, e l'altro è 30 anni e 17 re. Diciamo una band che comunque gli Avorio Nero hanno un suono rock, in una certa misura sono legati a una tradizione, secondo me, dal loro sound rock italiana, molto che passa dagli anni 80 anni 90. Sbaglio? No, sì, più o meno la nostra età, insomma, ci ha fatto crescere in quegli anni. Diciamo, io sono del 78, sono un ragazzino. Sì, la musica degli anni 80 e 90 sicuramente ci ha influenzato moltissimo. Senti, avete in programma uscita di qualche disco? Guarda, sì, in questo momento siamo proprio in fase di composizione, infatti. Prevediamo, se tutto va bene, che uscirà il nuovo disco entro l'anno. Magari un bel videoclip, oggi vanno di moda, perché no? Sì, ci sono molte cose in programma, soltanto che non è facile, che comunque noi, facendo questo di professione, comunque noi tutti lavoriamo, abbiamo il nostro lavoro, facciamo questo come seconda attività. Quindi chiaramente i tempi si allungano un po', conosco la problematica. Senti, ne approfitto per dire una cosa, nell'interesse di tuo e della tua band, ma anche di altre band. So che esiste una campagna su Music Racer di crowdfunding, quindi raccolta fondi, che se andrà in porto, se non andrà in porto i soldi saranno restituiti, per l'organizzazione di un concerto che si terrà il 13 maggio al Traffic di Roma, quindi in casa giochi, invita un po' di persone, esatto. Quindi per l'organizzazione di questo concerto, in cui si esibiranno 16 band che suoneranno i brani contenuti in 17 re più altri brani, produzioni proprie di queste band. Sì, è una bellissima iniziativa. Speriamo che vada in porto, insomma, che è stato molto difficile organizzarla da chi ha preparato questa iniziativa, perché... Ma è facile però partecipare tramite Facebook, ormai basta andare sull'evento per acquisire... Non è facile organizzare l'evento, perché le band comunque sono molto distanti tra loro, sono... Certo. Da tutta Italia, cioè dal nord al sud... chiaro, chiarissimo. Ma per partecipare basta andare su Facebook, cercare l'evento e quindi avere accesso anche alle informazioni. Sì, oppure sul sito di Music Racer, insomma, è abbastanza semplice. Senti Luca, noi siamo giunti alla fine della nostra piccola chiacchierata. Chiaramente abbiamo anche degli altri ospiti in studio che suonano dal vivo, pensa un po'. Facciamo sentire adesso, noi lo vogliamo sentire anche noi, io in realtà l'ho sentito, qui in studio non tutti hanno sentito il brano. Questo è un brano dei Avorio Nero, correggimi se sbaglio, un'aquila e un serpente. Sì, esatto. E allora ce l'ascoltiamo qui al Marchi Club, grazie Luca per essere stato nostro ospite, un po' voi, a distanza, buona serata. A presto. Un abbraccio. Un'aquila buona e un serpente, gli Avorio Nero. Grazie. Marchi Club. Bye. Avorio Nero con un'aquila e un serpente. Ringrazio ancora Luca per essere stato nostro ospite un po' a distanza telefonicamente, perché anche questa è una delle chicche qui di questa seconda edizione, di questa seconda stagione del Marchi Club. Quindi abbiamo modo di ascoltare non solo i nostri ospiti live qui di settimana in settimana nella nostra splendida Space Music che ci ospita ogni martedì tra le 21 e le 23, ma abbiamo anche modo di un attimino, diciamo, conoscere delle band che si trovano così in giro per l'Italia e quindi di promuovere anche la loro di musica originale. Siamo ancora qui, lo saremo fino alle 23. C'è il 349-850-8509 per inviare i vostri messaggi tramite WhatsApp oppure ancora tramite la nostra pagina Facebook Marchi Club. Cliccate anche un like, così rimanete, diciamo, aggiornati su tutti quelli che sono i nostri eventi e le nostre curiosità, le foto e quei video e quant'altro. Avete davvero un modo di seguirci anche su questa interfaccia virtuale. Torniamo tra poco con i nostri ospiti, che questa sera sono le Camere Blindate, e ovviamente lo faremo con la loro musica suonata qui live in diretta sulle frequenze di Radio Etna Espresso. E giusto parlando un po' di quell'alternative, arrivano loro, i Subsonica. Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare a prendermi vivo se tutti mi sbagli. Schianto Sale la febbre del rock per l'unica data siciliana dei Litfiba, in programma al Palart Hotel di Acireale, il 13 aprile. Spirito libero. Elementari e raffinati, ultrapotenti e sentimentali, esplosivi e romantici. Elettrici e poetici, i Litfiba porteranno sul palco del Palart Hotel di Acireale il 13 aprile la loro storia e i brani del nuovo album Utopia. È un'organizzazione Giuseppe Ravisarda Management. Infoline 095 716 71 86. Aria di Pasqua, offerta in festa dal 30 marzo al 6 aprile nei supermercati Maxi Store e Superstore Deco del gruppo Arena. Alcuni esempi: colomba oro classica Paluani da 900 grammi a 2,49 euro, latte Steril Garda microfiltrato parzialmente scremato da un litro a 59 centesimi, passata pomi in bottiglia da 700 ml per 6 a 2,95 euro. Ti aspettiamo dal 30 marzo al 6 aprile nei supermercati Maxi Store e Superstore Deco del gruppo Arena. Cerca il punto vendita più vicino a te su gruppoarena.it. Supermercati Deco, tradizione, qualità e convenienza. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, musica live in diretta dal centro musicale Space Music a Cireale. News musicali, interviste e tanti ospiti dal vivo. Tutti i martedì dalle ore 21. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, Marchi Club. Won't you come? Won't you come? Abbiamo sentito i Soundgarden con Black Hole Sun, un brano a cui sono particolarmente legato, anche un bellissimo disco. Guarda caso proprio l'ho messo su io ogni tanto, sai, c'è il libero arbitrio qui in radio e se ne approfitta. È davvero un bel pezzo quello, sì, dei Soundgarden. Infatti l'ha messo Carla questo brano. Lo scelto lei. Io lo ammetto. Dai, ormai a un certo orario tutto è concesso, ogni tanto si sgarra un po', mettiamo così su qualcosa. Ma noi qui passiamo buona musica, sì, devo dire. Sperando che piaccia ovviamente ai nostri ascoltatori. Sì, sì, piace il feedback che arriva, i brani che ogni tanto ci richiedono, non sempre riusciamo a esaudire i desideri di tutti, perché magari arrivano 4-5 messaggi, ci ritroviamo poi un po' a correre, anche perché ci sono dei tempi, abbiamo anche degli ospiti in sala e quindi diventa un po' complicato. In sala abbiamo le camere blindate, ragazzi, ci siete ancora? Ottimo, pensavo foste sempre usciti, qui, insomma. Carichi, sì, sì. Prima abbiamo parlato un po', ci siamo raccontati un po' di cose che ci hanno fatto sorridere, insomma, delle cose che succedono durante la vita. Per chi suona è facile trovarsi, imbattersi in situazioni davvero simpatiche, diciamo questo, folcloristiche, allegoriche. Ecco, ragazzi, volevo farvi un po' di domande, parlo troppo. Te lo allora, dico che è un interrogatorio, eh? No, no. Noi siamo pronti a qualsiasi cosa. Questa è la voce di Aurelio, giusto? Perfetto, sono io. Ormai riconosco pure la tua voce, ecco. Pur non conoscendoci da troppo tempo, però già riesco a riconoscere la tua voce. Fa piacere. Preoccupati, potrei diventare uno stalker, inizio a captare troppe ogni cose. Ogni riferimento a persone e cose puramente casuali. Prima abbiamo parlato degli stalker, sì, o delle stalker. Le stalker mi sa che son peggio sono degli stalker, ma vabbè, argomento a parte. Bisogna vedere come sono, ecco, se sono come brutte, agiscono. Non so se sto scherzando. Vabbè, dai. Oh, ma sempre in minoranza sono io qui al Marchi Club, sempre l'unica donna. È vero, è vero. Ragazzi, sentite, volevo chiedervi questo. Sentendo i vostri brani, l'ho detto anche quest'estate quando appunto abbiamo avuto modo di sentirvi dal vivo per la prima volta al Marchi Fest, Festival. Le vostre Festival, la stessa cosa, ci siamo capiti, fa uguale. Ecco, ho detto questo e lo ripeto, lo ribadisco, ascoltando i vostri brani io riesco a captare, diciamo, quello che poi è tutto un filone di indie alternative, però quello buono, perché poi sono successe tante cose in questo indie alternative. Ora viene prodotto un po' di tutto e di più, c'è parecchia melodia, i suoni sono dei suoni un po' analogici, ecco, vintage possiamo dire, mi fanno pensare a certe band che si sono, diciamo, hanno avuto il loro boom negli anni 90, anche se già, diciamo, erano state create un po' prima, negli anni 80 si erano formate un po' prima, tipo gli After Hours, roba del genere. È un po' tutto l'underground italiano. Ecco, la mia domanda è: le vostre influenze, cosa avete ascoltato nel corso della vostra vita, della vostra formazione musicale? Vorrei sapere un po' l'esperienza di tutti. Ok. Allora, diciamo che appunto essendo in cinque abbiamo diversi gusti musicali che poi raggruppandoli assieme formano questa nostra sonorità. E per quanto mi riguarda, io sono sempre Aurelio, per quanto mi riguarda appunto tutto l'underground italiano è inglese, un po' il British inglese anni 90, quelli che possono essere i Radiohead, ma anche il grunge. Prima abbiamo sentito appunto i Soundgarden e tutto questo miscelarsi di suoni, diciamo che mi ha accompagnato durante la mia vita e quindi musicalmente credo che mi abbia influenzato parecchio. Ma chiedi a Massimo, il batterista, giusto? Massimo, vieni qua, Massimo. Massimo, alzati e cammina. Sta arrivando, faccio la Massimo, alzati e cammina. Vabbè, io ho un orario tardo, però su. Buonasera a tutti. Adesso preparatevi tutti, perché parlerete a giro, tutti sarete un minimo interrogati. Ecco, Massimo, le tue influenze musicali. Allora, le mie influenze sono soprattutto progressive rock, ma siccome non ero in grado di suonarlo, ho deviato sui Pooh. Perché Stefano, diciamo che è il simpaticone del gruppo. No, vabbè, Stefano mi ispira soprattutto per la postura della batteria, che un batterista deve essere elegante, poi fuori tempo e anche semplice, ma elegante. Ah, ottimo, un buon punto di riferimento. Spunti, ecco. Assolutamente. Interessante, mi verrebbe da sottovalutare Stefano. Voi sottovalutate Stefano. No, assolutamente, guarda, io ci sono dei pezzi dei Pooh, ma più che altro strumentali, lo ammetto. Sentite, ragazzi, invece Enzo. Sì. sono qui. E il bassista già è arrivato, era preparato. Sì, eh? Sono vicino al cantante. Tu da dove vieni? Non da dove vieni geograficamente. Che cosa hai ascoltato? Ma diciamo che forse l'influenza è un po' simile a quella di Aurelio, diciamo sempre su After Hour, Radiohead, un po' anche in passato i Cure hanno influenzato un po', diciamo, la mia gioventù, mettiamola così. Ma anche se, passando anche comunque dal grunge, sia Nirvana, Soundgarden, un po' questo è tutto il mio iter, diciamo. Mentre Marco arriva era lontano, Marco, non era preparato, l'ha presa alla sprovvista. Grande Greenwood, grazie. Io condivido quello che ha detto Enzo. Derivo, condividi anche tu da... Sì, dal grunge. Diciamo, non sono un grande chitarrista, quindi i miei gruppi preferiti erano quelli dove si impegnavano poco. Vabbè, però no, ma figurati, usciva un gran prodotto. Diciamo che lui cura molto le sonorità. Forse i suoni a me interessano più. Questi sono i gruppi a cui mi ispiravo. Beh, comunque guardate che la tecnica fine a se stessa non porta da nessuna parte. Sicuramente aiuta, però voglio dire, sì, non è indispensabile. Sicuramente aiuta, però non è indispensabile, non è quello che fa scrivere dei buoni brani. Per ultimo, lo lasciamo per ultimo, ma non per una ragione. Io so che l'ultimo è entrato nella band a livello temporale, è il cantante Orazio Ventrella. Esattamente. Per quanto mi riguarda, le mie influenze, diciamo che sono simili a quelle di Massimo, quindi Pooh, Tempisti dei Sogni. Ecco, un altro simpaticone. Scherzi a parte. Diciamo che il rock classico è quello che più mi ha sempre appassionato, quindi quello che mi accomuna da un punto di vista appunto musicale in questi anni, dove mi sono sempre espresso. Ho cercato sempre di avvicinarmi a questo tipo di musica. Quindi Pink Floyd, ma anche il blues di B.B. King, insomma, caspita, Depeche Mode, quindi anche un po' di electro dark pop, se così si può definire. Ho capito, insomma, cercato di ascoltare sempre. Era bello fare questa domanda perché comunque proponete un indie alternative che ha molto però di anni 90 ed è bello capire come viene fuori la musica, da dove arriva, in base anche alle esperienze personali dei singoli componenti. Adesso io vi dico questo: iniziate a riprendere posto. Faccio l'ultima domanda a quelli che hanno il microfono davanti, che quindi non si devono spostare, che sono Orazio Ventrella e Aurelio. Dica. Eccoci. Chi li scrive i brani? Aurelio. Allora, i brani li scrivo io, sì. È una cosa che mi ha sempre appassionato, anche prima di iniziare a suonare. Già da piccolo iniziavo a scrivere, prima stupidaggini, poi una frase dopo l'altra, fino a quando sono riuscito a creare questa... diciamo questo insieme di parole che costituiscono. Allora, sarà buffo, ma io ho conosciuto ad Aurelio la prima volta che l'ho visto dal vivo è stato alla sagra, sì, dell'Arancino al Rifugio Sapienza. Sì, ancora cantavo io, perché prima cantavo, sì, io, infatti, sì. Li ho conosciuti in quattro, adesso sono in cinque, sì. Però una bella esperienza, sì, una bella, dire, esperienza a 2000 metri d'altezza. C'era, diciamo, un po' di freddino, però si mangiava bene. Sì, sì, si mangiava bene, si beveva bene. Dove si mangia e si beve, noi siamo sempre. E dove c'è buona musica, cosa volere di più dalla vita, davvero? Sentite ragazzi, siete pronti per farci sentire qualcos'altro? Esatto, vi salutiamo con il brano che dà il nome al gruppo, Camere Blindate. Yeah. ostinazione incontrollate. Espresso, Marchi Club. Ma tu ce l'hai l'Ecology Dry? No, non è solo un'asciugatrice. È un nuovo sistema igienizzante che toglie tutti i residui, anche di sapone, che restano sulla nostra biancheria dopo lavata. Bastano solo 5 minuti di Ecology Dry per avere molti dei vostri panni pronti da stirare o per un'asciugatura rapida. Ecology Dry penetra nella tramatura dei panni, rendendoli più morbidi, attraverso il processo di ultracentrifugazione, circa 3 volte più potente di qualsiasi lavatrice. Ha un sistema TBS per la sicurezza e, a differenza di un'asciugatrice che ha bisogno di un ciclo di almeno un'ora con un consumo medio di circa 30 centesimi a ciclo, Ecology Dry consuma circa un centesimo a ciclo. Per info chiama lo 095 779 2512. Gama Group 095 779 2512. Non chiuderti in difesa. Vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci. Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, Marchi Club. 1987 con Just Like Heaven. Io non so se tu sai, Riccardo, che un gruppetto faceva, diciamo, post punk e poi passò un po' all'indie rock e anche all'alternative, era un po' un misto di roba, ma venivano dal punk, che si chiamano A Fire Inside, abbreviato AFI. Fecero una cover di questo brano dei Cure, la presentarono live di fronte a Robert Smith e lui gli fece addirittura un applauso perché rimase entusiasta della versione degli AFI e un po' li promosse come paladino, diciamo, e quindi avviò la loro carriera da come è ripartita. Fecero questo brano e poi alla fine te ne uscivi o schifiaro, no? Invece lui proprio li applaudì, quindi fu una bella scoperta anche per lui. Siamo quasi un po' arrivati, diciamo, alla fine di questa nostra seconda ora. Anche di dici come orario. Orario, insomma, si va verso le 23, quindi è il momento di fare i primi ringraziamenti, che dici? Sì. Allora, ovviamente ringraziamo Marco Bertani per essere qui in regia a curare il nostro programma, i nostri tecnici Salvatore Rapisarda e Giuseppe Pandolfo che cura la regia fonica per i nostri ospiti che vengono qui a suonare live. I nostri ospiti fissi, tra cui Orazio Basile, sempre presente in studio. E tutti gli altri che di volta in volta seguono le band e quindi seguono anche noi qui alla Space Music di Acireale fisicamente parlando. E poi ovviamente ringraziamo anche il comune di Acireale, l'assessorato alle politiche giovanili, per offrirci questa sala gratuitamente ogni martedì nella fascia, appunto, che va tra le 21 e le 23 in occasione di ogni puntata del Marchi Club. Ovviamente il nostro sindaco Roberto Barbagallo, e poi c'è da ringraziare tutto il gruppo Etna Espresso, il nostro direttore Giulio Vasta che ci ha supportati e ci ha voluti davvero nuovamente per questa nuova edizione del Marchi Club, che ha avuto molto successo, e ha detto: beh ragazzi, fatelo di nuovo perché è davvero troppo bello. Quindi tutto il gruppo Etna Espresso, da cui io già faccio parte, tu ormai grazie al Marchi Club sei uno dei nostri. E poi ovviamente ci sono anche da ringraziare i nostri sponsor. Il primo è quello Sketch, caffetteria e fumetteria ad Acireale, dove noi amiamo recarci ogni martedì a fine del programma giusto per rifocillarci un po', ma non è aperto soltanto alla sera, è aperto anche a colazione, perché vi offre dei frullati, degli estratti preparati sul momento e tanti dolci da forno. Nel pomeriggio, perché caffetteria, fumetteria e punto di ritrovo per i giovani, per un aperitivo, per una cioccolata, un tè caldo. E anche alla sera, perché vi offre tra le varie pietanze del menù insalate, i panini sketch, i ramen, e soprattutto tutti i mercoledì e venerdì sera musica live. In particolare questa settimana, mercoledì 5 aprile, i Black Ray cover band musica rock, e venerdì 7 aprile ci saranno i Carbonica live in concerto e presenteranno tra gli altri pezzi anche il loro ultimo disco Quei Colori e l'ultimo singolo uscito Scappo Via. Vuoi spendere qualche parola in più, giusto perché tu sei il cantante, il leader di questa band, quindi ti tocca? No, per conflitto di interesse non ho nulla da aggiungere. Vabbè, comunque, semplicemente invitare tutti a vedervi. Come ha detto Carla, appunto, c'è il conflitto di interesse. Mi ritrovo qui a co-condurre casualmente, giuro, perché non, però in realtà faccio parte di questa band, i Carbonica, che molti magari di voi avranno sentito dire. Facciamo brani nostri e venerdì suoneremo gran parte dei brani contenuti nel disco. Dobbiamo dire che è da un bel po' di tempo che non suoniamo da Cireale. E quindi per tutti gli amici della zona, visto che voi ormai girate per tutta la Sicilia e non solo, finalmente fate di nuovo tappa ad Acireale. Quindi venerdì 7 aprile Carbonica in concerto da Sketch, mentre mercoledì, cioè domani 5 aprile, Black Rain Cover Band Musica Rock. Da Sketch. Da Sketch, alla sera, tra l'altro, potete anche richiedere la tessera sconti e promozioni per tutte le vostre consumazioni, quindi birre, drink, roba da mangiare, ecco, diciamolo un po' così alla spiccia. E a prezzi vantaggiosi solamente se dite di aver ascoltato questo spot al Marchi Club, quindi su Radio Etna Espresso. La vostra tessera non la pagherete, sarà gratis e quindi avrete direttamente accesso al, appunto, sconti e promozioni, quindi a prezzi vantaggiosi sulle vostre consumazioni. Sketch, che fumetteria, è ad Acireale in via Felice Paradiso numero 58 e online su Facebook e anche al sito web www.sketchcoffeecomics.com. ma c'è un altro nostro sponsor da ringraziare, perché una delle palestre storiche di Acireale, parliamo della palestra Vigor School del maestro Antonino Mascali, che è davvero un pezzo di storia acese, perché è in attività da quasi 40 anni, quindi ha davvero molta esperienza nel settore, e dal 1 aprile per tutto il mese offre una super promozione: un intero anno di iscrizione in palestra a soli 150 euro per il singolo e soli 250 se invece ti iscrivi in coppia. Ovviamente l'abbonamento è annuale, comprende tutti i servizi, ovvero la sauna, i corsi di zumba, total body, pilates, step, programmi di dieta personalizzati e di sala, e accesso open e limitato tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 22:30. Potete quindi approfittare di questa promozione: 150 euro per l'abbonamento singolo e 250 per l'abbonamento in coppia, anche magari per regalare, non so, al vostro fratello, al vostro fidanzato, a vostra moglie, un abbonamento in palestra, magari per iniziare ad andare insieme. Se uno dei due è appassionato, magari è l'altro no, potete davvero iniziare a come dire, a invogliare un po' il vostro compagno a iscriversi in palestra, anche perché l'estate è vicina, quindi direi che è anche necessario rimettersi un attimino in forma. La Vigor School è ad Acireale in via Bellini numero 18 e su Facebook alla pagina Palestra Vigor School di Acireale. Allora, prima andatevi a sbronzare allo Sketch e poi il giorno dopo andate in palestra, questo è quello che, giusto, insomma, per recuperare, è ecco, in pieno stile rock, così vi passano i sensi di colpa. Mick Jagger e siamo tutti felici, ha fatto una vita così: prima si è andato a sbronzare, adesso si tiene in forma, guarda, ad arrivarci alla sua età, per non parlare ancora, poi secondo me fa così. Sì, è so intanto che Kate Richards periodicamente va a rinnovarsi tutto il sangue, esatto, insomma, fa andava una, a fare un fa una leggera dialisi proprio di quelle, un rinnovamento lì, totale, lì neanche in palestra alla fine ha deciso di, sì, proprio andata, si è sbrigata, dice, mentre, mi faccio cambiare, metto il sangue nuovo, Mick Jagger prima si sbronza e poi cerca, va in palestra, recuperare, e tiene tutto in equilibrio. L'equilibrio è importante nella vita. Siamo quasi alla fine, i nostri ragazzi sono ancora in sala? Sì, eccoci. Ragazzi, allora io li abbiamo colto di sorpresa. Qui ci eravamo un pochettino allungati. Ragazzi, con le chiacchiere è giunto il momento dei saluti. Io personalmente vi ringrazio, ma vi ringrazio anche a nome della radio e di tutto lo staff di questo programma Marchi Club, per essere stati dei nostri e per aver suonato dal vivo per noi e per gli ascoltatori soprattutto. Noi ringraziamo voi, siete stati gentilissimi, l'accoglienza fantastica e soprattutto un complimenti e bravissimi per l'iniziativa che state facendo, che non è da tutti e che spero sia sempre più seguita. Dare spazio alle giovani band, alle band che propongono brani originali come noi, come ce ne sono tantissime nel sottoborgo della nostra bellissima Catania. Ti chiedo solamente di avvicinarti leggermente al microfono, perché scusa, ti senti. Ok, benissimo, scusa. Okay, no, giustamente voi siete musicisti, sì, e dico, ne capite sicuramente di microfoni e di attrezzature, però sì, giustamente la radio magari può essere a volte un po' un mondo nuovo, quindi sì, cerchiamo, sì, di darvi ogni tanto, okay, delle dritte, ma anche questo ovviamente è il bello della diretta, proprio perché qui facciamo tutto e voi lo sapete, potete testimoniare. Quindi non c'è, sì, quindi non, insomma, non c'è nulla, non in post produzione, non viene modificato nulla, tutto quello che succede è bellissimo, bellissimo proprio per questo. Se combiniamo dei guai, ve li ascoltate in diretta, ma proprio per questo sto programma è unico. Originale anche me. Lui, sì, assolutamente. Sì, infatti, questo è bello. Allora, ci tenevo ovviamente a farvi ricordare a favore dei nostri ascoltatori quali sono i contatti, i modi per seguirvi, i vostri prossimi eventi, impegni musicali, proprio per riuscire un po' a seguirvi tramite i social o altro. Esattamente, tramite Facebook ovviamente potete trovare la nostra pagina, Le Camere Blindate, poi tramite Instagram. E come eventi in programma abbiamo una festa in piazza giorno 1 a Maletto. Quindi sarete un po' in mezzo alle, su, in alta quota. In mezzo alle fragole. Sì, esatto. Le fragole di e insomma e pian piano saremo a Mascali, però vabbè, a Mascali, pardon. Eventualmente una scampagnatina a Maletto. No, Maletto voglio dire è molto famosa per la, quando fanno la festa delle fragole, quindi potremmo fare una capatina. Però Maletto con Mascali è un po' distono leggermente. Ecco. Vabbè, tranquilli, una volta ho scambiato Roccella Valdemone con Santa Venerina, quindi oddio, comunque, no? Questo è ancora peggio, ma comunque dicevamo, quindi potremmo vedervi a Mascali. Sì, poi Gravina di Catania il 17 di maggio. Insomma, per adesso abbiamo queste due tappe, questi due live in programma. Poi confidiamo insomma nell'estate per poter fissare nuove date. Quindi cliccate un like alla pagina Facebook e anche su Instagram, seguiteli, Le Camere Blindate, anzi, e così rimarrete un attimino aggiornati su tutto quello che sono i prossimi eventi e le prossime produzioni musicali dei ragazzi. Noi vi ringraziamo davvero. Grazie per essere stati nostri ospiti e ci salutiamo con uno dei vostri pezzi, stavolta non live ma registrato, che si intitola Solo per una notte. Grazie ragazzi per essere stati qui, ci rivediamo presto, magari alla prossima edizione del Marchi Festival. Riccardo, io ringrazio te per essere stato mio compagno di avventura anche in quest'altra puntata del Marchi Club. Ricordo ai nostri ascoltatori che l'appuntamento è per martedì prossimo, sempre tra le 21 e le 23, sempre sulle frequenze di Radio Etna Espresso, sempre per il Marchi Club. Dal centro musicale Space Music di Acireale. Che è anche dire. Una sala prova, uno studio di registrazione, anzi è un centro, invitiamo molte persone culturale a venirci a trovare per vedere un po' la struttura, considerando anche che i prezzi sono dei prezzi molto molto, ma direi politici, in quanto è una struttura pubblica, più quindi che abbordabili. Davvero un'ottima occasione per i giovani, per non venire, solo per i giovani, giovani insomma, e meno giovani, però dico a maggior ragione, sai, perché a volte 14-15 anni si hanno solo i pochi spicci, allora è un modo davvero per approfittare di questa opportunità. Esatto, un bello studio, una bella sala di registrazione. Ci salutiamo, appuntamento a martedì prossimo 21-23, sempre qui alla Space Music di Acireale per una nuova puntata del Marchi Club, e ci salutiamo con l'ultimo pezzo delle Camere Blindate, Solo per una notte. Buonanotte a tutti, ciao! Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. Yeah.